Allora riprendiamo la linea in diretta, sempre dagli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Dall'altro capo del telefono c'è Francesco del Movimento Notav. Ciao, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao, allora, dunque, si attendono queste decisioni del Comitato per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico, che si riunirà insomma in prefettura a Torino. Sembra appunto che ci sia nell'aria anche una possibile ritorsione, rappresaglia, non so come vogliamo definirla, rispetto a quanto sta accadendo in questi giorni. Per la verità, insomma, per quello che si è visto, ecco, davvero insomma non si sa chi l'ha commessa la rappresaglia e la violenza. Sarebbe bastato guardare insomma le stazioni della valle l'altra notte come erano militarizzate, ma insomma una decisione ancora non c'è, la attendete, vero Francesco? Sì, la attendiamo, come più o meno attendiamo tutte le decisioni, come attendiamo le previsioni meteo, diciamo, in Val di Susa è questo. Noi abbiamo il nostro programma di movimento, è chiaro. Abbiamo programmato comunque delle iniziative di lotta per tutta l'estate fino a settembre, concentrate attorno a delle dimensioni di campeggio estivo in cui tutti possono partecipare e venire in Val di Susa a trovare ospitalità e lotta. Quindi diciamo che le decisioni che verranno prese oggi sono abbastanza relative per quello che riguarda il movimento Notav. Per noi, l'avevamo detto sin dall'inizio, comunque il campeggio Notav è un mezzo, non è un fine, quindi non c'è nessun problema. Se ci sarà uno sgombro, ci sarà altro, penso che non modifichi di nulla quello che è la nostra prospettiva. Di fatto chi è in difficoltà oggi è sempre comunque chi vuole costruire l'alta velocità in Val di Susa, che si trova impantanato in un reticolato di filo spinato piazzato a Chiomonte da difendere ogni giorno. Quindi sì, attendiamo le decisioni, come dicevo prima, del Comitato per la Sicurezza, come attendiamo le previsioni del meteo, ecco, per capire se una bella giornata o pioverà, ma niente di più. Comunque noi ci muoviamo lo stesso, al massimo si mette l'ombrello, ecco, il più è niente di più. Infatti è quello che stavo dicendo, al massimo vi attrezzerete con qualche ombrello. Allora, la situazione insomma peraltro, come dire, dal punto di vista economico generale mi sembra abbastanza chiara, per certi versi insomma, cioè preoccupante, più che altro per i mercati a loro dire insomma appare preoccupante. Questo è un motivo in più, no, per sostenere la lotta della Val Susa, senza ombra di dubbio. Sì, è interessante anche, vorrei riportare un paio di dichiarazioni che sono uscite nei giorni passati da parte del Presidente della Comunità Montana della Val di Susa, quindi diciamo del governo della Val di Susa, della parte istituzionale, dei sindaci, che anche un pochettino su quello pongono l'accento. Abbiamo la Spagna che ha rinunciato a dei progetti faraonici di alta velocità dopo che Zapatero si era indebitato e di fatto ha fatto un buco economico che poi l'ha portato alla sconfitta elettorale. Il Portogallo ha ripensato immediatamente ai suoi progetti, la Francia lo sta facendo e l'Italia, che fa appunto ridere, quasi piangere, in Italia abbiamo un governo governato da Monti. Abbiamo un ministro dell'interno che è il ministro Cancellieri, che di fronte al problema dell'alta velocità si pone come un problema di ordine pubblico, no? E quindi dalla parte istituzionale della Val di Susa viene una domanda, qua il problema dell'alta velocità per il governo è di non retrocedere di fronte a quattro violenti, ma anche se fosse, la domanda è possibile che un governo si ponga in questa dimensione, cioè che prendere decisioni di politica economica di miliardi di euro in base all'ordine pubblico? Quindi non sarebbe meglio forse ripensare a quest'opera a prescindere da quello che comunque sono le mobilitazioni? Poi comunque penso che le mobilitazioni e il senso delle mobilitazioni siano proprio quello, siano un ragionamento economico, politico, sociale, fatto dalla Val di Susa, che dice no a quest'opera. E forse non sarebbe il caso di riprendere questo tipo di ragionamento se si vuole dare un senso a questo paese, alle politiche economiche o altro. Ecco, queste sono secondo me delle riflessioni interessanti che andrebbero analizzate e riprese. poi è sicuramente tutt'altro una prospettiva del movimento che comunque una prospettiva di lotta e di difesa di questo territorio. Assolutamente sì, insomma, peraltro occorrerebbe a quel punto riprendere anche la riflessione, no, su quanto il liberismo ha fatto negli ultimi anni e quindi collocare in altro modo la progettualità, insomma, anche sul piano delle grandi opere cosiddette, in generale del trasporto su ferro, insomma. Passando però ad altro, in questi giorni di nuovo, a partire dall'altra sera, insomma, è, come dire, riemerso questo refrain, no, della violenza. E ancora una volta, insomma, il canovaccio è sempre il medesimo, come qualche mese fa, tanto per dire luglio dell'anno scorso. Quindi c'è la solfa sulle facce allegre e spensierate che spariscono dai cortei e dalle mobilitazioni che prima animavano il movimento e che avrebbero lasciato il posto, lasciano il posto ai cosiddetti professionisti della violenza. Beh, è chiaro che delle pratiche di lotta al movimento No TAV, insomma, giornali, media e quant'altro ci hanno capito davvero poco, no? Sì, ma guarda, se possiamo fare un esempio, potrebbe essere quello di una persona che va al cinema e si immagina il film, no? Si immagina un bel film fatto come vorrebbe lui e tutto quanto, e poi trova un film completamente diverso. Ecco, allora uno è in grado di guardare quella che è la realtà, di indagarla, analizzarla, cercare di capirla, oppure può continuare a immaginarsi la realtà un po' come vuole. Qualcuno lo fa in modo più fazioso, qualcuno lo fa in modo semplicemente un po' più supponente e presuntuoso, e qualcuno veramente ci capisce poco. Ognuno ci mette del suo, ecco. C'è il giornalista che scrive perché deve sostenere una posizione, c'è il giornalista che scrive perché non sa fare altro della vita, c'è anche il giornalista che deve mantenere la poltrona, allora si inventa un pochettino un modo di scrivere, di narrare, che può piacere o meno, può essere di trend. C'è il giornalista che non ha neanche magari voglia di muovere il culo dalla sedia e allora legge gli altri giornali e riprende. Poi la realtà è altra, e chi comunque la vuole praticare, la vuole vivere, poi la riconosce e riesce anche a raccontarla. Questo è un po' il paradigma del nostro paese. Senti, comunque un'informazione di questo tipo di fatto sostenuta con fondi pubblici, non sicuramente sostenuta dai lettori, comunque sostenuta da chi è poi dall'altra parte della lettura, che legge, non cambierà. Francesco, se il campeggio dovesse essere mantenuto, come speriamo, quali saranno le prossime iniziative, i prossimi giorni? Sì, comunque indipendentemente dalla posizione del campeggio, che sia lì o ecco, in un altro posto, le iniziative che, diciamo, si faranno. Sì, noi abbiamo un bel programma di iniziative, partendo da questo sabato che abbiamo una marcia popolare da Giaglione a Chiomonte, per poi passare tutto un agosto di lotta a Chiomonte e ancora a chiudere, poi a fine agosto il campeggio degli universitari notari che da tutta Italia verranno a confrontarsi a Chiomonte, poi diciamo un colpo finale determinato degli studenti che dopo l'apertura di giugno ritorneranno a settembre prima dell'apertura delle scuole, quindi gli studenti medi. Va benissimo, allora magari, insomma, proveremo a risentirvi più tardi, a te o qualche altro compagno che sta su, per capire un po' quali sono le decisioni di questo comitato e casomai, come dicevi tu all'inizio, ci si cautelerà un po' di più, insomma, con l'ombrello, se fa freddo, col giubbotto, vediamo un po' quello che succede. Grazie Francesco, a più tardi. Ciao. A dopo. Ciao.